America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, l'ultima di Donald Trump, e che vuole distruggere un emendamento a una legge che impedisce alle chiese di qualunque professione di poter far politica, visto che hanno delle deduzioni fiscali anche importanti. Ecco, questo va contro la separazione netta di poteri fra Stato e Chiesa, che era stata stabilita da Lyndon Johnson, che poi sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti nel 1954. Poi una lite con il PM australiano, ecco, l'Australia chiedeva solo di rispettare un impegno su rifugiati che era stato sottoscritto dall'amministrazione Obama, e la conversazione è degenerata. Infine, questa è la notizia più interessante, un voltafaccia a Israele, un voltafaccia a Israele da Trump. Di fatto ha detto Donald Trump a Netanyahu: basta con gli insediamenti, non aiutano il processo di pace. Insomma, da Trump c'è da aspettarsi di tutto. Oggi sul giornale ho scritto una storia sui paesi alleati vittime del fuoco amico nella dottrina America First, la classica dottrina di Donald Trump. Insomma, una gran quantità di notizie. Questo è un tema molto interessante su cui avremo tempo di tornare, ma oggi direi basta politica, l'abbiamo fatta tutta la settimana, ci avviciniamo al weekend, è tempo di Super Bowl e di una chiacchierata solo andata a sorpresa. And Anderson, able to break away into the secondary, breaks another tackle. Il Super Bowl, beh, la grande finale del football americano, la grande festa americana. Quest'anno si giocherà domenica a Houston, i New England, i Patriots del New England contro i Falcons di Atlanta. Il grande tifo che vi ho fatto ascoltare invece è relativo alla finale dell'anno scorso, del 2016. Pensate, sono stati calcolati 112 milioni di spettatori, è l'evento più seguito nella televisione americana. Ecco, è lo spettacolo, molti di voi lo sapranno, lo spettacolo appunto di metà partita, è uno degli spettacoli di nuovo più seguiti d'America. Dunque parliamo di Super Bowl, parliamo di questo straordinario spettacolo, grande evento americano, eppure, beh, chi c'è dietro, soprattutto dietro lo spettacolo di metà partita? Chi lo organizza? Beh, c'è un italiano. E voi dite, ma come un italiano? Eppure sì, c'è un italiano, e c'è un italiano che ha preso un biglietto di solo andata per gli Stati Uniti. I'm an industrial designer. I study industrial design and design strategy in the Polytechnic of Milan. Parla in inglese il nostro amico italiano, si chiama Mauro Porcini, ha detto di aver studiato design industriale, strategie per il design al Politecnico di Milano, ma è anche nato a Gallarate, ha studiato a Varese e da lì ha preso poi un trampolino di lancio che l'ha portato prima a Dublino, poi a lavorare con altre esperienze, poi finalmente a New York, dove, come dire, è diventato uno dei protagonisti del design globale, perché si occupa di design per la Pepsi Cola ed è uno dei top executive. Ma qui non stiamo parlando soltanto di design, stiamo parlando anche di un esperimento che ha un obiettivo centrale, diciamo, nella strategia per quello che una volta era il vecchio marketing del prodotto, e cioè che il brand non è più attore, non è più il protagonista unico di quello che può essere un messaggio, ma diventa l'oggetto, cioè diventa un prodotto che dà delle sensazioni. E Mauro Porcini è con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Allora, intanto mi devi fare subito l'esame, ho dato una sintesi giusta? Perché perfetta, abbiamo... giusta. Benissimo, allora ricominciamo. Tu come hai fatto questo salto da Gallarate, da Varese a New York? Non sono venuto in America perché cercavo l'America, sono venuto in America seguendo un sogno, quindi è un sogno quasi... americano? No, no, è quasi casuale che fosse l'America, nel senso che il mio sogno era quello di fare il designer e attraverso questa professione di impattare la vita di persone, di creare un qualcosa di nuovo e unico. E questo mio percorso mi ha portato prima a Minneapolis e poi a New York. Se il lavoro mi avesse portato in Corea o in Africa, sarei andato lì. Come è stato che sei riuscito a... perché ci sono centinaia, migliaia di laureati, eppure c'è qualcuno come te che riesce a trovare una strada molto particolare. È importante avere dei mentor, è importante avere delle persone che ti ispirano. Ecco, qual è stato secondo te l'elemento determinante in questa tua strada? Potrei parlare per ore di questa cosa, ma diciamo che sì, hai citato dei mentori. Da Claudio Cecchetto, che ho incontrato nel mio percorso professionale. Con Claudio ho creato un'agenzia di design e innovazione all'inizio del 2000, e lui mi ha infuso questa voglia, questa volontà sempre di innovare, di fare qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima. Stefano Marzano, il grande capo del design di Philips a livello mondiale, quindi un altro italiano che ha impattato il modo di fare design nella consumer electronics negli anni 90. Loro sono stati i due miei grandi mentori, diciamo. E poi penso che un'arma che ho usato in questo viaggio è stata la capacità di unire un approccio totalmente italico, quella che chiamiamo l'arte dell'arrangiarsi, che poi gli americani chiamano in forma molto più elegante problem solving, quindi questo aspetto unico della nostra italianità, unito poi a una comprensione invece delle grandi strategie anglosassoni, del modo di lavorare process oriented di questa cultura. Mettendo insieme queste due realtà e questi due approcci in un mercato come quello di oggi, che è molto più complesso che quello di soli 10 anni fa, è stata una scelta vincente. Che cosa ha significato per te arrivare a New York, guidare una delle più importanti divisioni di una delle più grandi multinazionali del mondo? Un po' un dream job, tu sei arrivato inseguendo un sogno, questo sogno un po' l'hai trovato. Mi sento veramente privilegiato. New York penso sia una delle città più incredibili al mondo, la chiamo la capitale delle capitali. È un posto, una piazza dove personaggi che hanno voglia di innovare, di creare cose nuove, con background di ogni genere, dalla finanza, alla moda, al cinema, convergono per appunto creare qualcosa che nessuno ha mai creato prima. Ecco, salutandoci, se devi parlare a un giovane che pensa di non poter sognare, che cosa gli dici? È sempre importante sognare. Il sogno per definizione è un qualcosa di ingenuo. Se non si ha un sogno, per quanto ingenuo possa essere, non si potrà mai realizzarlo. Quindi sognate, è un momento secondo me magico, perché dalle crisi nasce sempre qualcosa di nuovo, nasce sempre l'innovazione. La realtà è che viviamo ormai in un mondo sempre più globale, quindi queste opportunità possono essere trovate a prescindere da dove si vive. Nasce tutto da dentro, non c'è bisogno di sfuggire dall'Italia. Io non sono fuggito dall'Italia alla ricerca dell'America, io ho seguito un sogno che mi ha portato qui. Il sogno avrebbe potuto anche lasciarmi in Italia e chissà che mai tornerò in Italia. Ma l'importante è avere questo sogno dentro e non farlo smorzare dai fattori esterni. Bisogna trovare questa fiamma dentro e portarla avanti. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.